Presento il padre Pietro Beltrame, è un francescano conventuale. Sono lieto che sia qui in mezzo a noi. È di Castelfranco Veneto, Treviso. Dal 1965 è residente in Argentina. Licenziato in sociologia all'Università del Salvador di Buenos Aires. È docente da alcuni anni al CEFIT di Cordoba, per scelta soprattutto pastore. Attualmente è membro del consiglio accademico della Multiversidad, università molteplice, francescana di Montevideo. A lei la parola e un grazie anticipato di cuore. Bene, io non sono abituato a parlare a teologi, vero? Come ha detto bene, io sono pastore, mi considero pastore, sono sempre vissuto in Barrios de Buenos Aires, in Villa Miseria, come chiamano lì, no? E il mio interesse nella materia è nato giustamente cercando una certa legittimazione, diciamo, la mia attività pastorale, molto abbastanza conflittiva in certi momenti, che ha visto la morte, che ha visto compagni spariti, che ha visto tutte queste cose. A un certo momento uno si domanda, vero? Comincia a domandarsi tante cose, a farsi domande, e si è incontrato con Mario Cajota, una conferenza di Mario Cajota, che è qui, che studiava questi temi dei francescani, e io francescano ho ascoltato, visto e mi ha entusiasmato. Possiamo vedere qui il padre Cajota. In realtà questa chiacchierata doveva farla Mario Cajota, però non parla italiano. E io sono stato portato qui alla forza da Monsignor Sartori, mi ha detto devi farla, e qui ho sperimentato che l'oppressione c'è anche qui in Europa, l'imperialismo si fa sentire fino a qui, ai poveri latinoamericani. Bene, comunque vorrei domandare perdono perché io, come dico, non sono uno studioso, più in là che ricerche un poco di sociologia, però sul campo proprio specifico lì della mia attività. E quindi leggerò un poco, anche perché difficoltà idiomatiche, tra l'altro, no? Ecco, mi piace cominciare con una piccola esperienza, narrando una piccola esperienza di quelli che sono stati i primi missionari francescani in America Latina, un'esperienza che poi si ripete spesso. Bueno, la prima esperienza missionaria di francescani è nel 1493, con due religiosi che si imbarcano al seguito di Colombo. Sono, nella dizione spagnola, fray Juan de Deula e Juan de Tissi, che secondo un'informazione di Bartolomé de las Casas erano persone notevoli spinte a venire qui per la conversione delle anime, e benché frati laici erano molto preparati e istruiti. L'atteggiamento di questi francescani contrasterà fortemente con quello dei conquistatori, che a dire di Mendieta è, diciamo così, lo storiografo ufficiale dei francescani, dei primi francescani. Appena arrivati all'isola spagnola, vedendo i conquistatori che quella terra offriva molto oro e che la gente era facile da sottomettere, si impegnarono più in questo che a educarla nella fede di Gesù Cristo. I francescani, da parte loro, si inoltrarono nella foresta, si sforzarono di imparare la lingua degli indigeni, condividendo il loro particolare stile di vita. Come racconta il cronista Ramon Panè, che accompagnava Colombo, essi abitavano in capanne, dormivano sulle amache, usavano dei tronchi come sedili, si alimentavano di mais, casabe, una torta di manioca, e tubercoli. Coltivavano il boniato per il loro fabbisogno e rifiutavano le comodità e i rifornimenti dei civilizzatori. Non si tratta ancora di un progetto missionario, con tutto ciò che questo termine significa, ma di un atteggiamento di rottura con le tensioni possessive e violente dei conquistatori e di uno stile di vita alternativo nel modo di rapportarsi con gli indigeni. Si intravede una condotta ispirata ai valori francescani della povertà e della fraternità che attualizzano il metodo missionario di Francesco di Assisi annunciato nella regola non bollata, capitolo 13, secondo la quale ci sono due metodi di evangelizzare. In primo luogo, vivendo il valore della fraternità in mezzo ai pagani, servendoli e dando testimonianza della propria fede. Il secondo, quando si vedrà che piace al Signore, proclamando direttamente il Vangelo. Questo atteggiamento non rimarrà un'esperienza isolata, limitata ai primi religiosi dell'isola ispaniola, con le logiche variazioni imposte dalle circostanze e dalle personalità dei missionari. Esso costituirà una nota caratteristica dell'attività evangelizzatrice in America, almeno degli inizi del secolo XVI, e integrerà il loro progetto missionario. Sono sempre più numerosi gli storici che stanno scoprendo la singolarità dello spirito missionario francescano in America Latina. Dico stanno riscoprendo. Voi sapete che le opere dei francescani sono state poco pubblicizzate, innanzitutto perché fino al fine del secolo scorso non sono state pubblicate. La censura spagnola ha proibito tutte le opere degli etnologi, di etnografi, come l'opera storica di Mendieta, eccetera, sono tutte state proibite. Dopo vedremo anche il perché. Erano opere proibite, sono state stampate, molte sono state perse come i dialoghi di Sahagún, di quale parlava il padre prima, sono state perse, altre sono state pubblicate, quindi non sono state tanto pubblicizzate. Anche gli storici non hanno molto lavorato ancora su queste opere. Bueno, gli storici parlano oggi volentieri di utopia francescana, quando parlano di questi metodi. Con ciò essi interpretano che la prospettiva missionaria francescana è orientata alla realizzazione di quell'ideale di chiesa e anche di società che aveva tanto travagliato lo spirito di Francesco di Assisi e di molti suoi seguaci della prima ora, e che il corso della storia aveva ripetutamente emarginato. L'ideale di chiesa, vero? Lo sappiamo attraverso le varie riforme, come ha intentato di riaffermarsi, però. L'utopia, in che senso intendiamo l'utopia? È innanzitutto un'immagine razionalmente costruita di un mondo ideale, vero? La sua funzione è quella di creare uno spazio al possibile contro ogni passiva acquiescenza allo stato presente. Se non vuole essere semplice evasione, deve accettare la sfida del confronto con la realtà e generare azioni che l'attualizzino, e queste sono sempre soggette al compromesso che impongono tanto la limitazione dei soggetti che intervengono come le resistenze che oppongono la realtà e gli schemi culturali e ideologici insufficienti nei quali deve periodicamente esprimersi. Così le concrezioni storiche che attualizzano l'utopia lentamente la deformano e la corrompono, e possono anche incorporare più o meno conscientemente espressioni e valori opposti a quelli che definiscono la sua identità. Questo fatto è importante per leggere l'utopia francescana nel suo concreto divenire storico. Tuttavia, il pensiero utopico non si rassegna, vero? Questo è il bello. Vivere l'utopia è vivere in una continua tensione creativa. Arrivati in America con i primi missionari francescani, questa utopia tratterà di realizzare una chiesa indiana, e ispirerà diverse iniziative sociali, sognando anche una repubblica indiana come alternativa al sistema sociale della modernità fondato sull'incipiente principio dell'accumulazione capitalista. I primi missionari non volevano l'espansione del sistema ecclesiastico europeo, questo lo vedremo più avanti, una chiesa specchio ma una chiesa fonte, visto che riprende queste parole Boff in suo ultimo libretto, una conferenza che aveva fatto lì in Argentina. La nota fondamentale di questo tipo di chiesa doveva essere una comunità libera da tensioni possessive. L'utopia francescana conoscerà la frustrazione dei suoi sogni e una battuta d'arresto con l'introduzione in America dei principi della Controriforma tridentina e con l'affermazione sempre più rigida dell'amministrazione spagnola. Si sta attualmente studiando la sua presenza in varie espressioni di resistenza al modello imposto dalla colonia e il suo influsso nei movimenti di indipendenza del secolo scorso. Questo influsso, per esempio, è stato studiato ed è molto importante, direi fondamentale, nel progetto politico di Artigas in Uruguay e nella sua legislazione sociale, come è stato studiato da Mario Cajota, c'è un'opera ancora in mimeografo su questo tema, l'utopia francescana nel movimento artiguista. Lo spirito dell'utopia francescana si trova ancora di più presente nel cattolicesimo popolare, delle confraternite, delle romerie, dei santi patroni e nel mondo delle cappelle e dei suoi santuari e Boff, anche se a qualcuno non piace l'autore, l'utopia francescana come uno degli elementi costitutivi delle comunità ecclesiali di base. Bene, e per delimitare il tema, ci riferiamo alla esperienza messicana iniziata nel 1524. Però questa esperienza messicana non è una esperienza isolata in Latino America, è come un prototipo, ecco, che molti elementi si ritrovano nei progetti missionari francescani in altre parti di America, così sta studiando per esempio ancora Mario Cajota questo tema. Quindi facciamo riferimento soprattutto al Messico. Da ricordare, questo è un fatto anche importante come notano gli studiosi, che questa esperienza messicana corrisponde al movimento più radicalizzato della riforma francescana, che era quello degli scalzi, uniti, che saranno uniti per decreto agli osservanti nel 1519, però passeranno al Messico nel 1524, già uniti, però mantenendo intatta la loro matrice spirituale, che avrà una particolare influenza nel loro progetto evangelizzatore. Ecco, qui dobbiamo saltare, perché anch'io ho troppi fogli, e ci sarebbe importante vedere le fonti di questa utopia francescana. Ecco, a che si ispirano questi scalzi? Innanzitutto, ovvero all'ideale francescano. Però ci sono anche altri elementi importanti, quali sono l'umanesimo cristiano, soprattutto di Erasmo e di Tommaso Moro. Però Mario Cajota sta imponendo in evidenza ultimamente anche altri umanisti spagnoli, logicamente sempre del circolo erasmiano, però che hanno una notevole influenza su questi missionari. Per esempio, si è ritrovato che già in Spagna si parlava si criticava la Chiesa post-costantiniana. Dussel non lo credeva, però Mario Cajota gli ha dimostrato, vero, le cose. Un altro elemento molto importante, un influsso, una corrente di pensiero è la corrente gioacchimita. La corrente gioacchimita, anche se non vero nei contenuti più teologici, no? Di principi teologici, quelli che sono stati condannati in quelle forme condannate sono sparite, però soprattutto in quella tendenza, vero, utopica verso un'aspirazione, verso una società migliore, verso una chiesa più pura, vero? Comunque qui sono riportate anche pochito i filoni attraverso i quali ci dà questa influenza, i testi, gli autori, vero, riportati, però lo lasciamo un poco da una parte. L'importante è che arrivano questi missionari a Messico con una idea alternativa di chiesa e di società, una idea alternativa a quella della conquista. Qui ho messo anche un capitoletto l'utopia francescana di fronte al sistema coloniale, come hanno reagito, però per far vedere anche i difetti di francescani, perché adesso verranno fuori posizioni, mentre ci sono francescani che, come Sumarraga, come Tastera, vero, Jacopo de Tastera, eccetera, che lottano, eccetera, ci sono anche quelli, come tutti gli ordini, vero? Quelli che stanno con Cortés, che stanno con il conquistatore, vero, eccetera. C'è un poco mescolato tutto quanto. Però vado direttamente all'ultimo punto, quello che mi sembra il più importante in questo contesto qui, vero, di riflessione teologica. La separazione fra il mondo culturale dei francescani e quello delle popolazioni indigene era abissale. Tuttavia ci sono numerose testimonianze che attestano un importante processo di compenetrazione fra i due mondi. Come già si è detto, alcuni credono di trovare la spiegazione di questo fenomeno nella cultura umanista, dentro della quale furono educati alcuni dei primi missionari. Senza rifiutare questo dato, è opportuno prestare attenzione alle piste che ci offrono gli stessi evangelizzatori. Quando essi cominciarono a stabilire un contatto più diretto con gli indigeni, si formarono subito l'opinione che non c'era un popolo più adatto per ricevere il Vangelo di quello delle Indie. Questa convinzione, condivisa da molti altri missionari, assumeva per i francescani un significato tutto particolare. Per essi, infatti, gli indiani possedevano, fra le altre, una qualità molto preziosa: vivevano poveri e sprovvisti di tutto. In questo fatto essi intravidero una profonda affinità tra lo stile di vita indigena e l'ideale francescano di povertà evangelica che la riforma del padre Guadalupe, fondatore dei Scalzi, no? Alla quale appartenevano, aveva recuperato nella forma più radicale e per il quale essi avevano tanto lottato. Una testimonianza, quella di Mendieta, per esempio, ci sono varie testimonianze, qui leggiamo quella di Mendieta che è più chiara, la traduzione è fatta da me. Scrive così: se il padre San Francesco vivesse oggi e vedesse questi indiani, si vergognerebbe e confonderebbe, riconoscendo che la povertà non era sua sorella e che non poteva gloriarsi di essa, e aggiunge: dico questo perché, pur essendo gli indiani così umiliati e disprezzati, ci sono stati molti di essi che hanno testimoniato così autenticamente, con la loro condotta di disprezzo del mondo, la sequela di Cristo, e con tanta decisione e quello spirito che io, povero spagnolo e frate minore, avrei voluto avere nella professione della vita evangelica. Così l'affinità che si percepisse fra lo stile di vita indigena e la professione di vita evangelica si converte in un ponte di unione, di simpatia fra il frate minore e i popoli indiani. Questo fatto, allo stesso tempo, costituisce un elemento decisivo per la formulazione definitiva. Del progetto missionario francescano. I missionari intravidero la possibilità che il loro ideale di rinnovamento trascendesse i limiti ristretti del convento per divenire programma di evangelizzazione, con la finalità di costruire con quelle genti una nuova chiesa libera dal potere e dalle tensioni possessive, secondo il sogno sempre emarginato di Francesco di Assisi. Così l'utopia diviene progetto e si converte in programma di azione. Saltiamo ancora qui. Se vede l'osservazione importante da fare, perché dice si è osservato, vero, che questo modo di percepire l'indiano è un modo molto soggettivo, che non c'ha riscontro con i processi storici di questi indiani. La prassi missionaria dimostrerà che sanno recuperare la realtà, la cultura, e quindi si stabilirà un processo, un dialogo vero tra cultura e messaggio evangelico. Di questo sforzo mi piace citare l'esempio di Jacobo de Tastera, quello che dice della sua esperienza personale, dice così, rispetto a questo sforzo per dialogare con l'indio, dice in una lettera. Parla degli sforzi compiuti per comprendere i segreti, dice, di questa gente e i sentimenti delle loro anime, finché ottenne di rompere, sono sue parole, il muro e penetrare nelle loro anime, di vedere e scrutare alla luce quasi di candela le meraviglie dei regali che Dio opera nei loro cuori. Poi si lancia contro i fastidiosi, dice, e pigri detrattori che non si affilarono i denti per pronunciare la lingua degli indiani, dice. Se nulla hanno fatto per imparare il loro idioma e conoscere le loro sofferenze, che tacciano e si tappino la bocca con pietra e fango, con lodo e ballo. È importante innanzitutto sottolineare la prospettiva e la peculiarità di questo progetto missionario francescano. Secondo una concezione dell'epoca, la scoperta del nuovo mondo con la possibilità di conversione di innumerevoli genti era interpretata come un segno provvidenziale che permetteva alla Chiesa di recuperare oltreoceano quelle folle di fedeli che aveva perso in territorio europeo con la rottura protestante. Si trattava di una specie di compensazione divina. Con la mediazione dell'evangelizzazione, la Chiesa mutilata dei territori europei si espandeva verso nuovi orizzonti oltre l'oceano. Per i francescani, invece, che pur condividevano questa idea, l'evangelizzazione non deve limitarsi all'incorporazione di nuovi membri al sistema ecclesiastico, ma deve innanzitutto riattualizzare la Chiesa primitiva degli Apostoli, libera dalle contaminazioni del potere e della ricchezza. Questa aspirazione era abbastanza diffusa nell'ambiente missionario messicano, ma solo tra i francescani trova una elaborata attenzione programmatica, oltre a presentare una prospettiva teologica diversa che riguarda il concetto stesso di Chiesa apostolica. Mentre questa in generale è intesa come il risultato, in genere è intesa così, di un processo della reformatio ecclesiae sul modello della Chiesa primitiva, per Mendieta, che esprime più questi concetti, che è un po' il rappresentante teologico, direi così, dei francescani, che esprime il pensiero di un gruppo numeroso di francescani, la Chiesa che nasce dall'evangelizzazione è essa stessa la Chiesa primitiva. In una lettera l'imperatore scrive: questa è la Chiesa primitiva per gli indigeni. Nel suo concetto sembra recuperare un'idea di Bernardino di Sahagún, il più famoso degli etnografi francescani. Bernardino parla di una peregrinatio ecclesiae. La Chiesa, a causa del peccato e dell'infedeltà, è costretta a peregrinare da una regione all'altra. Cominciata in Palestina, fu poi rimpiazzata dai non cristiani. Lo stesso processo avvenne in Africa e in Asia. La Chiesa peregrinò allora verso Occidente. Cacciata da una regione, rinasse continuamente in un'altra parte, perché la promessa di Cristo non l'abbandona. Alla stessa peregrinazione è per mendieta, sembra almeno, soggetta la Chiesa primitiva, la Chiesa apostolica. Si potrebbe affermare che essa è come una corrente di acqua sotterranea che ogni tanto emerge, ma non può scomparire, ma che può anche scomparire nuovamente a causa dell'infedeltà. È sempre la stessa Chiesa che riemerge. Poiché rappresenta l'ideale di Chiesa voluta da Cristo, non è legata a un'epoca del passato. Scomparsa con l'imperatore Costantino, riappare in altre terre con la predicazione dei missionari a nuove genti. La concezione della Chiesa primitiva è pertanto unitaria e si riferisce alla conversione iniziale di tutte le razze e genti del mondo. Con la scoperta dell'America, la Chiesa primitiva è chiamata ad approdare anche nel Nuovo Mondo. Per questo la Chiesa apostolica o Chiesa primitiva non è per mendieta un semplice ritorno alle fonti, come volevano i sostenitori della Reformatio Ecclesiae. È piuttosto un ritorno delle fonti. Il riferimento non è con la Chiesa istituzionalizzata alla ricerca di rinnovamento. La Chiesa apostolica che emerge dalle Indie è anteriore, è primitiva, affonda le sue radici direttamente nelle fonti della Chiesa, nel soffio dello Spirito che il Cristo nudo, questa immagine francescana, vero, della croce effonde sopra il mondo in Pentecoste. Caratteristica fondamentale di questa Chiesa è di essere una Chiesa povera e per i poveri. E questo, dicono i missionari, non è una cosa nuova, ma si tratta di ciò che la stessa Chiesa di Cristo usò all'inizio della sua fondazione. Essa si costituisce come antimodello della Chiesa post-costantiniana, simbolo, in tutti i movimenti della Riforma, di corruzione e decadenza, per aver abbandonato la povertà e aver permesso, come dice Mendieta, l'entrata della bestia fiera della cupidigia. Con ciò appare la continuità con le fonti francescane, per le quali la Pax Costantiniana era considerata l'origine di tutti i mali. Si possono leggere nel Sacrum Commercium, un'operetta dei primi tempi del francescanesimo, queste parole: ma ahimè, di lì a poco fu fatta la pace, e fu una pace più dannosa di ogni guerra, perché ora tutti mi fuggono, tutti mi cacciano via, da nessuno sono ricercata, da tutti sono abbandonata. Ho pace dai nemici, ma non da quelli di casa, dagli estranei, ma non dai figli. La povertà cacciata dalla Pax Costantiniana può ora ritornare come l'elemento qualificante dello stile di vita della Chiesa apostolica che riappare nelle Indie. La Chiesa povera appartiene per diritto ai poveri. Si osserva che i francescani nei primi tempi dell'evangelizzazione battezzavano rapidamente, anche se è verità che poi dedicavano lungo tempo alla catechesi post-battesimale. La giustificazione di questa condotta non si deve ricercare, come si afferma comunemente gli autori, che non hanno letto a fondo le fonti, solo nella fretta di fare nuovi cristiani per salvare le loro anime. Per Motolinia, uno dei primi, quello che più in fretta battezzava, sta nel fatto, la ragione, che per i poveri l'appartenenza alla Chiesa è un diritto prioritario al dovere di una approfondita preparazione catechetica, Così scrive: spesso vengono a battezzarsi e non osano presentare la domanda, perciò non si devono esaminare con molta esigenza, perché io ho visto molti di loro che sanno il Padre Nostro, l'Ave Maria e la dottrina cristiana. E quando i sacerdoti li interrogano, si turbano e non rispondono. A questi tali non si deve negare il battesimo, poiché di essi è il regno dei cieli, già che possiedono appena una stuoia rotta per dormire e una povera coperta per ricoprirsi, e la povera casa in cui vivono è tutta cadente e scoperchiata, ed essi sono semplici, senza nessuna malizia né avidi di interessi. La principale ragione per battezzarli è che di essi è il regno dei cieli, per il fatto stesso di essere poveri. Il battesimo attesta la sacramentalità di questa situazione. Dopo viene la tappa catechistica. In quanto chiesa primitiva, la chiesa che emerge dall'evangelizzazione è anteriore a ogni processo ecclesiale di istituzionalizzazione. Per questo può reclamare il diritto alla libertà come principio di creatività e costituirsi non come chiesa specchio, riflesso di quella metropolitana nelle Indie, ma come una chiesa fonte con caratteristiche proprie, non come una chiesa dipendente, ma come una chiesa autonoma. Evidentemente non è questa la terminologia usata dai missionari. Mendieta esprime questo concetto dicendo che non si tratta della chiesa delle Indie, espansione del sistema ecclesiastico europeo, ma della chiesa indiana, una chiesa indiana. Per questo i francescani si oppongono alla pura trasposizione di strutture e norme europee alla cultura indiana, scrive una lettera dei francescani, firmata dai francescani, famori pareseres. Né Giustiniano ha fatto leggi, né Bartolo, né Baldo le hanno esposte per questo nuovo mondo e la sua gente, esclama, a reclamare il diritto alla creatività di fronte alla nuova realtà. D'accordo con questa posizione, i missionari chiedono innanzitutto per la Chiesa indiana una organizzazione ecclesiastica propria, direttamente vincolata al Papa di Roma. I vescovi, secondo alcuni documenti, devono essere eletti come nei capitoli provinciali dei religiosi. Non devono avere chiese cattedrali sontuose, né canonici, né dignitari, poiché provocano, dicono, solo spese e nessun beneficio agli indiani. Tu che sei canonico. No, non sono mai. Ce ne sono. Gli stessi vescovi devono vivere poveramente, perciò non devono avere rendite né richiedere le decime. Per questo è conveniente che siano scelti fra i mendicanti per la loro professione di povertà. Come alternativa a questa organizzazione si propone anche che la Chiesa indiana mantenga lo statuto missionario iniziale sotto la giurisdizione dei superiori religiosi e che i vescovi intervengano solo per atti specifici della facoltà di ordine. E a quanti criticano questo progetto come inaccettabile, per essere in contraddizione con le leggi canoniche e le tradizioni della Chiesa, tra questi erano contrari, erano anche Vasco de Quiroga, che pur voleva una Chiesa apostolica, e queste parole sono proprio in risposta a Vasco de Quiroga, disse: sarebbe duro affermare, guardate cosa dicevano in quei tempi, che ciò che è stabilito dai sacri canoni si osservi inviolabilmente nelle Indie, benché i nativi mai arrivino a essere buoni cristiani. Anziché gli indiani arrivino a essere buoni e veri cristiani, cambiando alcune sanzioni e decreti stabiliti dai padri. Il principio della libertà e creatività non è rivendicato solo in rapporto all'organizzazione ecclesiastica, ma anche come possibilità di adattamento alle nuove situazioni emergenti nel continente americano e alla cultura autoctona. A questo riguardo scrive ancora Mendieta: gli uomini non sono stati fatti per le leggi, e i decreti, per santi che si siano. Piuttosto è vero il contrario. Questo atteggiamento non è proprio di un solo frate, poiché costituisce, e questo è l'importante, il nucleo del programma consegnato dal padre generale dell'ordine Francesco Quiñones, antico scalzo, che aveva ideato la missione di Messico e poi non era potuto andare perché fatto generale, aveva dato queste consegne. Andate, dice, non per osservare cerimonie e disposizioni, giacché il modello è Cristo e il suo Vangelo, tutto deve essere orientato all'ottenzione di questo fine. Il fine è la formazione di una Chiesa secondo le esigenze del Vangelo, sul modello della Chiesa primitiva. La mediazione è data dall'evangelizzazione attraverso l'annuncio e la testimonianza della vita. Il problema che si presenta nelle Indie è la mancanza di testimonianza da parte degli spagnoli, che unita al processo di ispanizzazione voluto dalla corona, minaccia di distruggere la chiesa che i missionari e gli indiani hanno cominciato a costruire. La soluzione che si prospettano è la separazione della chiesa indiana da quella degli spagnoli, dando forma a due chiese autonome. A partire da questa prospettiva, la preoccupazione fondamentale dei missionari, e qui entra il centro poco dell'attività, della strategia missionaria, sarà come resistere al processo di acculturazione spagnola e come ottenere che la Chiesa indiana arrivi a formarsi una identità propria, radicata nella cultura autoctona. Questi temi non si sono studiati ancora molto a fondo. Come avverte Phelan, uno dei primi studiosi qui di queste realtà, di Mendieta in questo caso, nel fondo esisteva un profondo conflitto ideologico. Era l'universalismo cristiano dei frati contro l'imperialismo spagnolo della corona. I francescani erano molto sensibili alla missione universale del Vangelo e perciò erano restii a fare concessioni all'impulso nazionalista della corona. Si consideravano portatori di Christianitas, non di Hispanitas. E questo è frequente, ripetuto con frequenza da Mendieta. Per questo si oppongono con forza agli spagnoli che usavano il termine cristiano per distinguersi dagli indiani. Dice Mendieta, io ringrazio Dio perché arrivando a questa terra mi fece prendere coscienza di questo errore e mai dalla mia bocca uscì questa parola, cioè di chiamare lo spagnolo cristiano, ma solo spagnolo. Per il francescano la qualifica di cristiano non era un attributo che andava riferito a una razza o a una cultura determinata, ma a una fede. Così l'essere spagnolo non costituiva un privilegio in seno al cristianesimo e ugualmente l'appartenenza alla razza indiana non doveva ridurre il neoconvertito a un cristiano di seconda categoria. Gli spagnoli, dice Mendieta, sono come i giudei del tempo di San Paolo. Essi si gloriano della circoncisione esterna. In cambio gli indiani hanno compreso che la vera circoncisione si porta nel cuore, secondo lo spirito e non secondo la lettera e le leggi, e cerca l'approvazione di Dio e non quella degli uomini. Bene, diciamo che cercano una certa identità alla Chiesa. Importante lo studio in questo senso, due attività fondamentali, quella di resistenza all'espansione dello spagnolo, dell'imposizione dello spagnolo, nei quali i francescani, è vero, sono fermissimi, non accettano di insegnare in spagnolo, dicono di sì e disobbediscono, non usano mai lo spagnolo. Nel collegio di Tlatelolco, che è il punto strategico di loro, si insegna in latino, si insegna in nahuatl, però non si usa spagnolo. È come una forma di resistere, perché la lingua era la forma di entrare della cultura. Quindi è una grande resistenza. Poi lo studio degli etnografi, che è una caratteristica propria dei francescani, solamente un domenicano, cioè Durango come etnografo, il resto sono tutti, sì, il resto sono tutti, sono sei o sette francescani, si dedicano a questo studio dell'etnografia, però lo dicono chiaramente. È per recuperare tutte quelle istituzioni, quelle tradizioni che sono d'accordo, possono essere d'accordo con la nuova religione. Per vedere, qui si è parlato di inculturazione, io vorrei sopportare per finire almeno qui un esempio del studio che si sta facendo della lingua delle opere francescane in lingua nahuatl, come hanno tradotto certi termini teologici in nahuatl. Ecco, facciamo questo qui. Vestiamo. Ecco qui. Il Dio cristiano è chiamato i Palnemoani, datore di vita, e ancora Atlawa, signore dei dirupi, o Intonam, Intota, che vuol dire nostra madre e nostro padre, cioè tutti concetti nettamente indigeni. Gesù è chiamato Temachistiani, cioè liberatore della gente. Il concetto di incarnazione è tradotto con i termini, e qui sono difficili da leggere però, Occhimoquilico in Tomasenaluacagio, prese per sé la nostra carne di maciuale, cioè di gente comune. E il concetto di redenzioni è la parola, tradotto vuol dire la parola, quella che libera il popolo. Per dire vero che... Fray Alonso de Molina, il più grande studioso della lingua nahuatl, ci offre un autentico sforzo di simbiosi culturale a partire da un vocabolo, Nechelmelawalistli, usato per indicare un antico rito di purificazione, che tradotto significa l'azione di raddrizzare i cuori della gente, a partire dalla stessa radice forma un neologismo, chiamiamo così, che vuol dire strumento per raddrizzare i cuori, per indicare la penitenza, il sacramento della penitenza. Ecco, in questo senso, riferito a questo, ha senso quella frase di che citava il padre di Juan de Tecto, stiamo imparando veramente la teologia che Sant'Agostino non aveva mai conosciuto. Una studiosa messicana, nordamericana, che sta studiando questa letteratura, dice, conclude così, l'evangelizzatore è evangelizzato. Io riportavo anche qui, però abbiamo finito, qui ci sarebbe la dimensione politica dell'utopia francescana, però lasciamo stare perché siamo passati, però è interessantissimo vedere come dalla povertà fanno della povertà una categoria politica, e questo in opposizione a quello che dice per esempio Mires nel suo libro, che dice che la povertà neanche bisogna prenderla in considerazione come elemento di opposizione al sistema coloniale, mentre a partire proprio dalla povertà si forma tutta una ideologia politica di opposizione al sistema. Logicamente tutto questo si muove, vero, dentro di tante limitazioni culturali. Che cosa si può dire come conclusione? Che questi francescani hanno anticipato certe posizioni? No, il sistema ideologico era... Quando arrivano a formalizzare, per esempio, il loro sistema politico, che per me è quello che sta alla radice anche del problema ecclesiologico, dicono a un certo momento, loro non restituiscono il potere agli indiani. Non sono fatti per comandare, ma come... per obbedire come sudditi, e in questo sono i migliori di tutti, dicono. Era l'idea di tutti, non c'era l'idea di democrazia, vero? Però c'è veramente uno sforzo per avvicinarsi alla cultura dell'indio. E io riportavo qui alcuni esempi di riti paraliturgici che facevano, e come riportano, narrati dagli stessi indiani, come riportano veramente questi rituali indiani trasformati in cristiani. Logicamente rientra il discorso che faceva il padre prima, vero? Come dobbiamo considerare questo? Io sono stato 25 anni in mezzo alla gente umile del popolo, vero? Io sinceramente questi problemi di sincretismo o non sincretismo non me li sono mai posti troppo fortemente. E lo dico con sinceramente. Io importante vedo quella gente che si esprime, importante come il padre visse nella quotidianità di quella gente, essere vicino, essere capaci di comprendere le loro forme espressive, è vero, e che a un certo momento possano rincontrarsi anche, ecco, con questa luce un poco più che Cristo, però